Noi dal Bauer fantastico, no? Mi costa un salto, sì, sì. Che è? Quando siete da partire, non ci siamo ancora insieme, al momento... Sì, sì, sì. Quando noi non sai come si parlava. Quante, quante, quante... Io non ho capito. Dove sta? Sì, ma dove sta? Sì, ma dove sta? Sì, ma dove sta?